Era gli occhi peggio tonda, ma girato tutto il mondo. Era gli occhi peggio tonda, ha girato tutto il mondo. E tu sei riformato, ora chiesa la via da te. E tu sei riformato, ora chiesa la via da te. E poi alzato vela, lui di grappiele. E poi alzato vela, lui di grappiele. Ho fatto un giro tondo, ora lui mi ha ritondo. Ho fatto un giro tondo, ora lui da via. Ma lui mi ha male tutto. Quando si è mangiato un pistacchio, ora lui di birra. Quando si è mangiato un pistacchio, ora lui di birra.